Si terrà domani sabato 18 di settembre allo Spazio Dambo qui in via Casarini a Bologna la sesta edizione del Festival della Partecipazione, un'iniziativa di ActionAid, Cittadinanza Attiva e Legambiente con la partecipazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana. Noi siamo al telefono con Katia Scannavini, vice segretaria generale di ActionAid, che innanzitutto saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Per prima cosa ti chiedo di ricordare ai nostri ascoltatori e ai nostri ascoltatori che cos'è il Festival della Partecipazione? Il Festival della Partecipazione è un momento di aggregazione molto importante che ormai è in Italia dal 2015-2016, quindi sono già diversi anni, ed è un momento nel quale si discute sul concetto di trasparenza e di partecipazione, ma soprattutto si propongono attività e si portano avanti istanze, opportunità di visione e quindi anche esperienze che poi diventano radicate nei territori. Dicevamo che sono diversi i soggetti che lo organizzano, ci siete voi di ActionAid, ma ci sono anche altri partner. Esattamente, ci sono i nostri colleghi e le nostre colleghe di Cittadinanza Attiva, nonché di Legambiente, e poi partecipa anche la Fondazione di Bologna per l'Innovazione, alla quale teniamo particolarmente. Questa sesta edizione tornate a Bologna, perché c'eravate stati anche nel 2020, dopo tappe anche in altre città d'Italia. Esatto, torniamo a Bologna dopo essere stati per lunghi anni all'Aquila, ma torniamo a Bologna perché crediamo fortemente nella capacità anche di assorbimento e mobilitazione di una città come appunto Bologna, che ha sempre espresso, così come la sua regione, una grande capacità di partecipare alla vita politica e quindi anche civile del nostro paese. Quindi crediamo proprio che a Bologna gli obiettivi che noi ci prefissiamo e ciò che vogliamo appunto raggiungere anche da un punto di vista degli scambi e del dibattito possa essere il luogo sicuramente più consono per il nostro festival. Un festival che si concentrerà in un giorno solo, domani appunto, sabato 18 settembre. Quale sarà il focus di questa edizione? Allora, il focus di questa edizione è sul PNRR, quindi sul piano di ripresa e di resilienza che abbiamo in Italia, ma che in realtà coinvolge tutta l'Europa se lo vediamo dalla chiave del Next Generation EU. Quindi è un appuntamento importantissimo perché è un appuntamento che è al passo col tempo e ci chiede di riflettere su quello che è il momento fondamentale di svolta del nostro paese, ma non soltanto di riflettere, anche appunto di partecipare. Quindi la mattina sarà dedicata a una tavola rotonda dove discuteremo a livello internazionale, quindi anche con dei soggetti che ci portano le esperienze degli altri paesi in questo momento appunto di rilancio dell'Europa, ma nel pomeriggio soprattutto lanciamo le scuole di monitoraggio, le scuole della mobilitazione del campaigning, e questo appunto lo facciamo proprio per rendere la cittadinanza partecipe in un processo di ricostruzione così tanto importante quale quello che stiamo vivendo. Sulla mattinata poi approfondiremo ulteriormente anche con un'altra intervista. Ti chiedo di spendere due parole sui workshop del pomeriggio, che in realtà sono ad invito, però insomma coinvolgono anche associazioni. Su cosa avvertiranno? I workshop sono per noi parte davvero fondamentale domani. Innanzitutto in questo workshop parteciperanno più di 35 realtà associative nazionali, di questo noi siamo molto contenti. È un workshop che facciamo in collaborazione con l'Osservatorio Civico sul PNRR e che appunto hanno l'obiettivo di lanciare il nostro lavoro di monitoraggio rispetto ai progetti che verranno portati avanti a livello nazionale sul PNRR. Un workshop sarà tutto quindi concentrato sulla partecipazione, il monitoraggio civico, come viene fatto, quali sono le leve fondamentali, ma soprattutto come si può costruire una comunità attenta che possa partecipare, dire la propria e contribuire quindi in un processo di costruzione così tanto delicato e importante. Il secondo workshop è sulla capacità di mobilitazione, la possiamo dire così per essere compresi da tutte le persone che ci stanno ascoltando, e quindi come anche poter portare, mettere al centro la propria voce e poter avere anche qui un ruolo decisivo in quelle che poi sono le politiche decisionali che vengono prese appunto in considerazione ma anche implementate dagli organi preposti e dalle istituzioni. Per questa edizione voi partite da un'affermazione che riguarda anche la condotta del governo italiano, voi dite non ci ha ascoltato. Non ci ha ascoltato per nulla, sono i fatti che lo dimostrano. Sono infatti passati tanti mesi, già dall'inizio della pandemia, in quali abbiamo tentato in tutti i modi un'interlocuzione. Abbiamo cercato di poter essere appunto ascoltati sia come Festival della Partecipazione, sia come osservatorio, sia come singole realtà, quindi siano di Action Aid ma anche Cittadinanza Attiva e Lega Ambiente, si sono appunto mobilitate per denunciare la necessità di avere dati trasparenti e poter far partecipare cittadini e cittadine ai processi che vedono appunto l'opportunità non solo di gestire un momento così straordinario come quello della pandemia ancora in corso, ma quindi anche tutto ciò che verrà appunto di nuovo analizzato nel festival, che ha a che fare col PNRR. Quindi ne abbiamo dati tanti di spunti, anche molto tecnici, anche molto puntuali sui decreti leggi che via via si sono susseguiti, eppure purtroppo la nostra richiesta di contatto, di discussione si è persa nel vuoto. Ed è per questo che insomma farete un monitoraggio dei progetti del PNRR dal basso. Esattamente, a questo punto, come dire, noi comunque non molliamo, crediamo che sia per il bene del nostro paese poter andare avanti con questo obiettivo, e quindi ciò che faremo è mobilitare le persone, portarle a poter scegliere e discutere quali progetti del PNRR vorranno monitorare, e noi come associazioni ci prendiamo appunto l'onere, ma anche il giusto piacere che devono avere poi le associazioni e ogni singolo cittadino, di monitorare anche il processo che è alla base di tutto questo grande programma che l'Unione Europea sta portando avanti. Diamo qualche dettaglio tecnico su come partecipare al Festival della Partecipazione. Si può venire allo spazio Cumbo, come avevi tu stesso detto precedentemente, dalle 10 di mattina, saremo fino alle 13 in una bellissima tavola rotonda, e poi appunto su prenotazione, sempre nello stesso spazio, avverranno i due momenti di formazione. Per chi non potrà muoversi o non è a Bologna, sulle piattaforme del Festival della Partecipazione, quindi online, su Facebook, sui canali Instagram, ci si può collegare via streaming. Grazie mille Katia, e insomma buon festival, e ci vediamo domani in via Casarini allo Spazio Dambo. Grazie. Grazie a voi.